30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La spesa militare complessiva è cresciuta nel 2008 del 4%, raggiungendo la cifra record di 1.464 miliardi di dollari, 1.000 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 45% rispetto a 10 anni fa. Nella top 10 dei produttori, aziende americane ed europee, in quella dei compratori, Stati Uniti, Cina e Francia. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. Questa sera approfondiamo una notizia lanciata dal SIPRI, lo svedese Stockholm International Peace Research Institute, che l'istituto indipendente di ricerca che da oltre 40 anni lavora su sicurezza internazionale e disarmo. Il nostro ospite è Loretta Napoleoni, economista, esperta di terrorismo internazionale. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera. Un dato innanzitutto, che è quello complessivo, in fondo l'idea che la spesa per gli armamenti cresca continuamente non fa forse parte della nostra percezione, diciamo, del passare del tempo degli anni. Invece i dati parlano chiaro, c'è un aumento regolare e molto significativo. Sì, soprattutto devo dire che è interessante il fatto che questo aumento non si sia fermato né tantomeno abbia rallentato nel contesto della grande recessione in cui ci troviamo oggi come oggi. Quindi la spesa per gli armamenti sembra avere un andamento completamente distaccato dall'economia internazionale, quindi non ha nulla a che vedere neanche con il ciclo economico, e questo è un dato secondo me molto interessante. Quindi la spesa per gli armamenti di fatto segue altre linee, ma può essere una questione, diciamo, di registrazione dei dati, o meglio può essere che questo effetto si rifletta poi sui dati relativi al 2008 e al 2009, quindi negli anni successivi, o a suo avviso è proprio indifferente? Ma dunque sicuramente una correzione ci sarà, nel senso che gli ordini per alcuni tipi di armi vengono fatti con molto anticipo e ci vuole tempo per produrre, quindi la consegna, diciamo, un po' posticipata. Però i dati del SIPRI sono dei dati molto molto buoni, cioè ha un'ottima reputazione, quindi se questi sono i dati che sono stati pubblicati io tendo a credere che siano molto molto vicini alla realtà. Ecco, i dati dei SIPRI, ve lo dico per gli ascoltatori, www.sipri.org, un sito ricchissimo di informazioni, noi ne citeremo alcuni questa sera. Cominciamo da quello degli Stati Uniti, che sono di gran lunga di fronte a tutti nella spesa militare. Ci sono molti numeri in questo discorso, mi piace, diciamo, sottolinearne due che utilizzeremo, quelli in dollari a parità di valore fissati nel 2005, che ci danno, diciamo, una spesa complessiva, e quella della percentuale rispetto al PIL. Nel caso degli Stati Uniti si parla di 548 miliardi che corrispondono al 4% del PIL. Ecco, in questo senso si è visto un declino rispetto a 10 anni fa, dove gli Stati Uniti investivano oltre il 5% del PIL nella spesa militare. Sì, bisogna vedere anche la composizione poi di queste armi, perché oggi come oggi noi ci troviamo in una situazione in cui l'America è impegnata su due fronti, quindi in Afghanistan ed in Iraq, 10 anni fa invece non era impegnata in nessuna guerra, quindi la corsa agli armamenti 10 anni fa molto probabilmente era più relativa ad armi di protezione, quali anche l'arma nucleare, e può darsi benissimo che i costi fossero stati più elevati. E queste due guerre che si combattono oggigiorno sono delle guerre, diciamo, un po' atipiche, quindi una guerre con caratteristiche più di guerriglia, e quindi bisogna vedere la composizione delle armi. Io penso, ecco, i dati del SIPRI, chiaramente questa disaggregazione non l'hanno, io penso che ci sia stato un aumento delle cosiddette small arms, quindi le armi che invece vengono utilizzate nel combattimento di tipo guerriglia, perché sono queste che poi alla fine vengono usate principalmente sul terreno sia in Iraq che in Afghanistan. Ecco, quindi le small arms e questa trasformazione che ci porta inevitabilmente alla questione di quanto abbia influito la guerra contro il terrore internazionale, dunque il post 11 settembre. La presidenza Bush rimarrà agli annali anche per essere quella che ha fatto ripartire e riportato verso l'alto la spesa militare americana complessiva. Sì, dunque, tra l'altro c'è un'opinione comune secondo la quale Le guerre in realtà possono essere positive per chi produce le armi, perché praticamente rimettono in movimento l'economia, e è questo che si pensava all'inizio, diciamo, della campagna di Bush, la famosa War on Terror iniziata nel 2001. In realtà quello che abbiamo visto è che il processo di privatizzazione dell'esercito negli Stati Uniti è arrivato a un punto tale in cui l'unica cosa che è di proprietà, diciamo, dello Stato sono i soldati e praticamente poche cose che hanno indosso, il resto è tutto privatizzato. E questa privatizzazione ha portato a una dispersione dell'effetto, diciamo, economico positivo della guerra, nel senso molte di queste società poi non rimettono in circolazione nell'economia americana i profitti generati, ma finiscono da qualche altra parte. C'è anche questo aspetto molto interessante dell'errore, diciamo, di iniziare una guerra di questo tipo da parte dell'amministrazione Bush. Ecco, a proposito di amministrazioni, l'amministrazione Obama è, diciamo, ancora fresca di nomina. C'è qualche segnale in una direzione o nell'altra rispetto al capitolo degli armamenti? Ma io non credo che ci siano dei segnali né positivi né negativi. Su questo fronte Obama ancora non si è apertamente pronunciato. È vero che ha voluto potenziare la presenza americana in Afghanistan, tra l'altro ha anche chiesto ai propri alleati, e una notizia di questa settimana è che gli italiani, certo, aumenteranno il numero, appunto, dei soldati in Afghanistan. Quindi maggiore presenza. Quindi io non vedo un rallentamento, diciamo, della corsa verso gli armamenti. Mi domando dove prenderanno i soldi, perché, insomma, l'America si trova in una situazione economica disastrosa. Da una parte, appunto, deve arginare la recessione, dall'altra parte ha una grossa fetta delle banche ancora in crisi, e in più c'è questo sforzo militare. Si sa che stanno stampando carta moneta perché stanno facendo il quantitative easing, e questo potrebbe nel lungo periodo innescare la spirale inflazionista negli Stati Uniti. Quindi mi sembra una situazione molto molto molto seria. Questo dunque per gli Stati Uniti, ma vediamo anche il resto del mondo. Quando la Cina si sveglierà, il mondo tremerà. Così la celebre profezia pronunciata da Napoleone nel 1816, cosa che oggi, ormai da qualche anno, sembra essersi avverato. Quello che sentite nel sottofondo è un inno della Marina Militare cinese, che, come dire, si sta affermando in questi ultimi anni come il palcoscenico della ritrovata potenza militare. Insomma, dall'esercito di terracotta del primo imperatore cinese Qin Shi Huang, l'uomo vissuto 22 secoli fa, cui viene riconosciuto e viene attribuito il merito di aver unificato la Cina, alla flotta con le spettacolari uscite, l'ultima, quella di cui stiamo prendendo questo audio, il 23 aprile scorso, Qingdao, base e sede della flotta del nord, i cinesi mettono in mostra sottomarini, incrociatori, insomma, mettono in mostra una nuova potenza. Bene, le spese della Cina, sempre riferite ai dati, appunto, prodotti dal SIPRI, parlano di 63 miliardi di dollari l'investimento nel 2008. Insomma, Loretta Napoleone, la Cina è passato a secondo acquirente del mercato mondiale di armi. Sì, c'è una corsa agli armamenti in Cina che non è, diciamo, un fenomeno nuovo. Certo. L'abbiamo visto negli ultimi 10 anni, c'è stata un'accelerazione, direi, negli ultimi 2-3 anni. Perché succede questo? Perché prima di tutto la Cina ha capito che non può presentarsi sul mondo come la prossima superpotenza senza avere una potenza anche militare adeguata, e quindi sta cercando un po' di ricostituire questa potenza, diciamo, militare che aveva nel passato. Insomma, parliamo, appunto, come abbiamo detto prima, dei tempi dell'imperatore. E gli Stati Uniti sono ancora oggi come oggi la più grossa potenza militare, quindi la Cina vuole in un certo senso riuscire ad arrivare a quel livello ed anche superarlo. Ha iniziato con la Marina, quindi lo sforzo economico principale è sulla marina, però vedremo che subito dopo passerà anche all'esercito. Non dimentichiamo che la Cina è anche una potenza nucleare. Assolutamente, potenza nucleare, potenza marittima. Il fatto che in questa fase ci sia così tanta attenzione sulla marina ha delle implicazioni dirette con quello che poi sono, diciamo, la sua sfera di influenza e ovviamente in primo luogo Taiwan? Ma io credo che Taiwan sia importante fino a un certo punto. Io penso che il problema principale sia il fatto che la Cina ha una costa lunghissima, è importantissimo difendere le città della costa perché chiaramente diciamo il nucleo fondamentale, almeno al momento, dell'economia cinese si trova lungo la costa. E poi c'era il problema chiaramente dei pirati che infestavano il mare della Cina fino a 18-12 mesi fa. Quindi riassumere il pieno controllo di questo lunghissimo litorale. Assolutamente, questa diciamo è la priorità. Dopodiché da lì chiaramente si inizierà anche un pattugliamento delle rotte. Quali rotte sono le più importanti? Sono principalmente quelle lì con l'Africa. Non dimentichiamo che appunto la Cina commercia con l'Africa, ma anche diciamo con il Medio Oriente per quanto riguarda le sue necessità di materie prime. E quindi per difendere diciamo queste rotte, per evitare incidenti tipo appunto quelli della Cirrus, della famosa petroliera saudita che è stata rapita dai pirati. Insomma, una potenza che è ovviamente una grande potenza commerciale deve assicurare la sicurezza delle proprie rotte, deve proteggere i propri commerci. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, rieccoci dunque a parlare di spese militari. Lo facciamo con Loretta Napoleone, economista esperta di terrorismo internazionale. Dunque, la Cina, la sua crescita, la sua natura di potenza commerciale e le rotte. Le rotte sono un elemento fondamentale per la sicurezza di una nazione, per continuare a costruire la sua ricchezza. Cosa sta facendo la Cina? Che ruolo può svolgere a questo punto in questi tempi in cui ritornano i pirati nella zona sud del Mar Rosso, nel Golfo di Aden, insomma, in cui riscopriamo dei costumi, comportamenti che sembrano riportarci appunto alla storia, al passato? Dunque, io direi che è molto interessante vedere come è cambiato l'intensità degli attacchi dei pirati in alcune zone del mondo. Fino al 2006, inizio 2007, il Golfo della Malacca era diciamo il posto più pericoloso. Il Golfo della Malacca oggi come oggi è passato in seconda posizione rispetto al Golfo di Aden. Ecco, Malacca quindi zona di Singapore, Malesia, Indonesia, gli stretti che di fatto ammettono dal Pacifico all'Oceano Indiano. Esatto. Quella è una rotta importantissima per la Cina, perché attraverso quella rotta transitano diciamo le grosse navi commerciali che portano appunto le materie prime di cui la Cina ha costantemente bisogno. Quella zona è stata completamente ripulita dai pirati dalla marina cinese, al punto tale che questi pirati sono spostati nel Golfo di Aden e oggi come oggi il Golfo di Aden è la zona più pericolosa. Nessuno fa nulla sul Golfo di Aden, nonostante il fatto che sia una rotta importantissima per gli europei, perché praticamente porta al Mar Rosso e quindi praticamente al Mediterraneo, perché nessuno ha quella forza di marina militare necessaria per poter combattere un tipo di attività di questo genere. Sappiamo che gli americani hanno mandato alcune cacciatorpediniere, ma sono diciamo in situazioni un po' sporadiche. La Cina non è interessata a quella zona del mondo e quindi ecco, quella zona del mondo in un certo senso è lasciata un po' a se stessa, e questa è una delle conseguenze della fine della guerra fredda. Finché c'era la guerra fredda, le zone del mondo, diciamo limitrofe tra le due sfere di influenza, venivano regolarmente pattugliate dalla marina militare dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti. A proposito di Unione Sovietica e di Russia, un dato interessantissimo. Nel 1988 la spesa militare percentuale rispetto al PIL dell'Unione Sovietica allora era del 15,5% appunto del PIL, oggi quello della Russia è del 3,5%. Ecco, prima di passare poi all'Europa, la Russia oggi rappresenta ancora una potenza militare o in qualche modo ha abdicato questo ruolo di competitor degli Stati Uniti alla Cina e punto? Ma sicuramente la Cina è molto più importante, cioè nel senso vediamo la formazione di un nuovo blocco, chiaramente il blocco cinese, che si contrapporrà quale potenza militare agli Stati Uniti. Questo però non vuol dire che Putin non abbia intenzione di ricostituire una presenza, diciamo, militare che sia una presenza solida. Non credo che riusciranno mai a tornare ai livelli della vecchia Unione Sovietica, però sicuramente l'intenzione è questa, però al momento la Russia non se lo può permettere, cioè, diciamo, la situazione economica, questo è un altro elemento importante, nel senso che mentre gli Stati Uniti si indebitano per continuare la corsa agli armamenti, i russi non hanno i soldi a causa della crisi economica, devono sostenere l'economia nazionale, i cinesi questi soldi ce li hanno e quindi comprano in contanti. Tant'è che questa grande spesa, lo ricordiamo, corrisponde a poco più del 2% del PIL, con paesi che invece, ne citiamo solo alcuni, come l'Arabia Saudita o la Georgia, in situazioni, diciamo, geopolitiche completamente diverse tra loro, hanno una spesa militare che supera abbondantemente il 10%. Ma vediamo un altro aspetto di questa storia. E questa roba che cos'è? È il mio campionario. Io sono commesso viaggiatore in armi da guerra. In che? È in armi da guerra, non vede? Bombe di vario tipo e natura, munizioni, qui sotto mezzi mobili, camioncini, carri armati. 1974, finché c'è guerra c'è speranza. Un insolito Alberto Sordi, attore e regista di se stesso, che racconta in fondo quello che poi sentiamo, un mercato florido, prodotti che vanno a ruba. Ecco, da una parte i grandi produttori, l'industria che vede in cima alla lista, su tutti, la Boeing, la BAE, la Lockheed Martin, Northrop Grumman e General Dynamics. Poi ci sono le aziende ancora americane e europee come EDS, ma anche Finmeccanica, Thales. Quindi per la produzione delle armi l'Europa rimane un centro nevralgico. Sì, dunque l'Europa è sicuramente il continente dove si producono più armi, tra l'altro è il continente che produce anche le armi più sofisticate ed è un business, direi, molto, molto importante per l'economia europea. Non mi sembra che questo business cambierà, nel senso, anzi, in un momento recessivo come questo, il fatto che ci sia un'industria che si muove anticiclicamente, quindi che non viene influenzata dalla recessione, quindi che continua a produrre, io credo che sia dal punto di vista dei politici europei positivo, e quindi non vedo nel futuro alcune restrizioni sul commercio di armi. Un'azienda che funziona bene, che funziona, come ci spiegava, anche in una fase di difficoltà economiche. Visto che siamo quasi verso la chiusura, mi piacerebbe sottolineare un altro dato che viene indicato nel rapporto, ed è quello del boom di fatto delle operazioni di peacekeeping. Si parla di 187.000 persone coinvolte da questa attività in tutto il mondo. C'è una bellissima mappa interattiva che vi invito ad andare a vedere, vi ricordo sipri.org, che, diciamo, a colpo d'occhio descrive che ogni anno nel mondo ci sono oltre 100 missioni operative e quindi migliaia di persone coinvolte. Anche questo è un modo per alimentare il mercato. Sì, mi sembra che questa sia anche una grossissima ipocrisia del mondo in cui viviamo, nel senso gli europei sono molto attivi nelle operazioni di peacekeeping, però sono anche quelli che producono le armi e che richiedono queste operazioni di peacekeeping, quindi sembra molto interessante questo parallelo. Una volta si sarebbe detto si sostengono i movimenti della guerriglia in Africa, soprattutto gli anni 70 sono stati pieni di questi casi, dal Mozambico all'Angola, poi interviene il peacekeeping, è questo che sta dicendo? Sì, infatti all'origine bisogna cambiare la situazione, quindi cerchiamo di capire perché queste società producono tante armi, chi le compra e magari cercare di bloccare questo commercio. Ma io vorrei aggiungere una cosa. Prego. In chiusura, interessantissima, la situazione nel Messico, cioè noi ci troviamo in una situazione in cui il Messico oramai ha un esercito di narcotrafficanti, esercito nel senso sono armati fino ai denti, e queste armi provengono dagli Stati Uniti, principalmente dal Texas, e per cui c'è un commercio in cui queste armi entrano in Messico, vengono utilizzate da narcotrafficanti contro la polizia locale e anche contro l'esercito, e in uscita c'è questo flusso di droga. Certo, ne abbiamo parlato, peraltro è stato questo tema oggetto di una puntata poche settimane fa di 30 minuti in cronaca. Da un lato c'è un grosso traffico d'armi, mi piace a questo punto segnalarvi il dato sulla spesa militare del Messico che in realtà risulta molto bassa, lo 0,4% del PIL. Lei ci sta dicendo in sostanza che, come sempre, insomma, i numeri vanno ampiamente interpretati. Il Messico appare quasi un paese con l'ulivo in mano, invece è tutt'altro che così. Ma è certo, perché queste armi chiaramente non vengono acquistate dallo Stato, ma vengono acquistate da narcotrafficanti, quindi non rientrano nelle statistiche. Cioè, in più si tratta di un commercio di contrabbando. Ecco, quindi è molto interessante, secondo me, notare la produzione di armi americana, cioè l'industria di small arms americana è una delle prime nel mondo. Gran parte di queste armi finiscono oltre confine in Messico e vanno a sostenere un'industria che è l'industria appunto della droga, che poi finisce per distruggere i giovani sulle strade americane. Cioè, sì, questa è una storia sicuramente paradossale e drammatica che, appunto, come dicevo, è stata raccontata qui da Roberto Darin. Lo potete risentire nelle nostre puntate precedenti. Io vi ricordo a questo proposito radio24.it, il podcast e tutto l'archivio delle trasmissioni. Anche questo è una pagina della grande storia del commercio, e oggi abbiamo parlato solamente del commercio legale, a parte questa piccola parentesi finale, appunto, del commercio legale degli armamenti. Io ringrazio Loretta Lampoleone di essere stato con noi, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, vi ricordo 30 minuti a radio24.it per le vostre mail, e non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana con Radio 24.